Frequentatori dell'Altra Radio Roma, salve a tutti! Chi vi parla da questi microfoni è il vostro amico Gasperino. Proprio l'altra sera, durante una riunione tra i quattro fondatori della radio, mentre giravamo tra i vari siti che normalmente e abitualmente andiamo a spulciare per ricavare nostre canzoni e per creare questi meravigliosi podcast, abbiamo trovato su Archive un certo Tony Gasperino con una canzone pubblicata diverso tempo fa che ha avuto circa 34 downloads. Ci troviamo di fronte a una canzone che parla circa di un eremita chiamato Tony Gasperino. Ci siamo guardati in faccia, ci è venuto da ridere e abbiamo capito che veramente si trattava di uno sfortunato. E pertanto abbiamo pensato di rilanciare questa canzone mettendoci le mani e farla diventare la mia sigla. Click the red button for a trip. Signore e signori, buonasera. Un'altra radio Roma presenta Mister Gasperino. Presenta Tony Gasperino. Tony Gasperino. Ci volevo così tanto. The dusted reason on that track perhaps only once that day. Ma non l'ho mai capita. But now it grows again as we return the other way. È semplice. Mister Gasperino presenta Tony Gasperino. We've been to see a friend on the way home from Marino. Io so Gasperino il carburante. Io so Gasperino il carburante. Io so Gasperino il carburante. Package mark, Mr. Tony. Gasperino, Gasperino, Gasperino. Gasperino, Gasperino, Gasperino, Gasperino. I saw a creek there and a few roofs, smelled a storm on the air, heard the bell buzz. Che sei un pubazzo, che sei un pubazzo. Sing without a care. Poi non l'ho mai capita, poi non l'ho mai capita, poi non l'ho mai capita, poi non l'ho mai capita. Well, time had stopped and wound on back perhaps 50 years or more. Lasciamo stare, dai. Lasciamo stare, dai. Lasciamo stare, dai. As my dad and I graced Mr. Gasperino's door. Gasperino, Gasperino. This place had only one room, a bushman, a miner's hut. Io so Gasperino il carburante. With no ceiling there to speak of, no gabling struts. And I saw a creek there, and a few roofs. Radio. Smelled a storm on the air, heard the bell buzz. Roma. Ma che sempre? Sing without a care. Ci volevo così tanto, ci volevo così tanto, ci volevo così tanto. And I saw a creek there, and a few roofs. Radio. Smelled a storm on the air, heard the bell buzz. Ah, ma basta con sta canzone. Sing without a care. Ma per me è tutto, è vero. Un'altra radio Roma. Roma. Roma. Roma. Questa è Time to Split dei The James Quintet. Quintet, quintet, quintet, quintet, quintet, quintet, quintet, quintet, quintet. Questo è il 58esimo podcast del fantastico mondo dell'Altra Radio Roma. Voi vi domanderete, perché fantastico? Innanzitutto perché ci troviamo di fronte a una web radio che, come credo unico, ha quello di passare canzoni sotto licenze lontane da quelle SIAE. Fantastico soprattutto perché qui a Altra Radio Roma ci lavorano Mr. Coco, Mr. Brontolo, Mr. Kempo e il sottoscritto Mr. Gasperino. E fantastico anche perché non ci trovate su altre radio. Noi siamo solo qui, non ci trovate. E solo qui potete trovare i podcast. Ebbene sì, ormai è ufficiale. Altra Radio Roma, insieme al Teatro Faranume, ha organizzato la stagione teatrale di jazz. Avete capito bene? Di jazz al teatro. Partirà così dall'8 novembre il calendario e ad aprire la stagione di concerti sarà proprio lui, Paolo Pavan. E oggi esploreremo il fantastico mondo del jazz. attraverseremo questo mondo nelle sue più svariate forme e ci incontreremo con artisti di parecchio tempo fa. Pertanto questo podcast sarà intervallato per ricordarci, come al solito, che la vita non deve essere presa troppo seriamente da due artisti comici, questa volta siciliane. Loro sono Ficarra e Picone. A parte le chiacchiere, direi di introdurci subito in questo mondo. Il primo artista che vi vado a proporre è Bonobo. È noto come Scimpanzé Pigmeo ed è il nome d'arte di Simon Green, un musicista inglese, produttore e DJ. Molto attivo con le sue attività live in America del Nord, in Inghilterra, in Francia e in Belgio. Abbiamo così la possibilità di apprezzarlo con una rara performance acustica dal vivo caratterizzata dalla fantastica voce di Andrea Triana. Per voi, The Keeper Live! Un'altra radio Roma. Pure tu che ancora credi alla televisione, non lo sai perché fanno questi spot che devono fare bella figura, non lo sai il perché? Perché? Perché devono fare bella figura? Cosa c'è nel 2006? Ah, tu dici che devono fare bella figura perché nel 2006 ci sono le elezioni. Una volta si chiamavano elezioni, ora si chiama rinnovo del contratto col padrone di casa. A parte che io sto contratto non l'ho firmato, quindi non ne voglio sapere niente. Ogni volta che prendiamo questo argomento ti devo spiegare di nuovo tutte cose. Non importa che tu l'hai firmato, il contratto è valido pure con te. Io non ho firmato niente, non è valido niente, lo vuoi capire? È valido, lui nel contratto ci aveva scritto. Il contratto è valido con tutti gli italiani, a basta che qualcuno lo vota. Io non ho votato per nessuno, ma insomma devi avere ragione. E non importa, lo votava un altro e lui accendeva il contratto pure a te. Non lo voglio acceso sto contratto. Ma come tu? Allora te lo spiego in un altro modo. Un altro lo vota e tu usufruisci del contratto. Non ne voglio usufruire del contratto. Allora te lo spiego così. È come il contratto con l'Enel. Quanti siete in famiglia voi? Sei. Che avete sei contratti con l'Enel? Ne avete uno e gli altri ne usufruiscono. Hai capito? Quindi tu dici che qualcuno si è allacciato al mio voto? Evidentemente sì. Vuol dire che mi devo rassegnare che sono uno di loro. Non va uno di loro, uno di noi, tutti di Forza Italia siamo. Che volevi essere di Forza Germania? Ma poi dovresti essere contento, ma abbiamo un presidente del consiglio che ce lo invidiano in tutto il mondo. Ce lo invidiano tutti, però ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo. Ma c'è stato. I don't need her, 'cause every time I call, she's sitting sweeter. When I know she said to keep near her, but I'm feeling colder and I must leave her. I'm sat down here with my head hung down and I just seem to find a bit of peace, bit of love, bit of something left behind. Sat down here, best intention, nothing said, nothing lied. With a bit of peace, bit of love, bit of something left inside. Hey, hey, yeah. Yeah, yeah, yeah. My heart's content, and I say that to please her. Happiness is on her face, it's not mine that greets her, and only my disgrace to admit I need her. But we all fall from grace, so dust me down and keep her.

forza a certi progetti e un'altra Radio Roma lo fa. Per questo ci stiamo ascoltando le Jam Session del Centro Giovani di Rivalta. Però ora ci spostiamo in Francia, da un'artista che si fa chiamare Anna C. A 7 anni ha incominciato a suonare il pianoforte e oggi ci presenta un jazz abbastanza frizzante. Ci ascoltiamo Jeanette et les comptables, comptables, comptables, comptables, comptables. Sur son visage si lisse, poser un sourire factice, mettre une belle cravate et puis partir en bosser. Du bout de ses cravates, celles qui font de ses empires, piétiner les miettes du pied du mur qui restait, se regarder dans la glace pour voir un comptable à la place. Dans un cartable en cuir noir, bien classé tous les devoirs, entre crayons et portables, tout ce très sérieux de table, puis démarrer une nourrie, qu'en secret une chérie, le volant caressé comme aucune femme jamais, son regard de rétro lui montre un comptable très très beau. Mais ce jour-là, en arrivant à son cabinet, trouver la lettre de démission de Jeanette, sa secrétaire, pour d'obscures raisons. Sur la lettre manuscrite, des mots antipathiques, se dire que de toute façon, Jeanette est bête à bouffer du son. Appeler la NPE, trouver un remplaçant, faire un tableau Excel pour s'occuper un moment. Mais ces mots qu'elle a écrits restent gravés en lui malgré lui. Pourquoi ce déficit d'intérêt? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Petite vie minable, Jeanette et Rosalie ensemble ont beaucoup ri, et le petit comptable a épousé son Audi. Li ho trovati su Dogmazi, che hanno 5 album all'attivo. Sono di Roma e si chiamano i GC Group e ci ascoltiamo Orizzonte. torniamo nuovamente in Francia per ascoltare gli Astrax, che sono formati da Daudé, Suchner. Scelgono il jazz in quanto è risultato della loro esperienza musicale di quando erano bambini. The Jazz Woman, che è il brano che stiamo per ascoltare, è la prima canzone di questa formazione ed è stata ispirata dalla pura sessualità della forma del corpo femminile. Particular day, that particular night, things have been so strange, things have been so light. I'm to ring the wrong place, coming at the right time. She was on stage and I was in the sky. The jazz woman is here. What a wonderful sensation. Was fairly select. She was wearing a hat and looked just perfect. When she started to sing, the din went on and on. Although I stopped breathing to hear this song, the jazz woman is here. I'm in love with the soul of a boy so far. I'm looking at her eyes, she's looking at mine. The music of her side, intoxicating as wine. The jazz woman is here. Oh, what a wonderful sensation. And yet no one could care apart from me. Eccomi qui ancora con voi per trasmettervi tanta bella musica. Lo avevo promesso all'inizio, questo podcast è ricco di sorprese. La prossima artista non è un'artista dei nostri tempi, no, ritorniamo indietro di molto tempo. È famosa nel 1900, nel 10, nel 20 e nel 30. Interpreta molte canzoni, molti film e cura anche un programma radiofonico. Nasce il 13 gennaio del 1884 nella Russia zarista e con la famiglia ancora bambina si trasferisce in America, dove il padre, insieme alla propria famiglia, apre un ristorante. All'interno di esso, molto giovane, lei incomincia a muovere i primi passi come cantante ed è anche pianista. Si chiama Sophie Thatcher. Il nome di nascita risponde a Sonia Kalisd. Incomincia molto giovane a calcare i palcoscenici musicali del jazz. ed è stata annunciata come l'ultima dei Red Hot Mamas. Con il suo abbondante sessuale appetito, era un tema frequente e ritornante nei suoi brani, insolito per gli interpreti femminili dell'epoca. L'artista che ci stiamo preparando ad ascoltare si chiama Sophie Thatcher e canta insieme a Hall Jolson. Il brano è International. L'ho tratto su Free Music Archive. Fammi andare. No, non mi trattenere, me ne devo andare. Devo andare in banca, devo andare a litigare con la banca, perché adesso siamo arrivati al limite brutto. Devo cambiare finalmente, banca. Devo cambiare l'hai capito. Basta, c'hai la banca antica, c'hai la banca d'antiquariato. C'è la... Il direttore si chiama Luigi XVI, gira ancora con Parroccone, dai! Ieri mi hanno combinato l'ultimo. Che è successo? Ieri sono andato là, dovevo fare un versamento, gli ho detto devo versare. Dove vado? Dice terzo sportello, dove c'è l'impiegato col passamontagna qua. Va bene, è ancora l'impiegato col passamontagna. Mia cugina c'ha una banca di queste veloci, queste moderne. Lei esce per andare a fare il versamento, passa il capocassiere col Vespino e gli fa il versamento a volo. Io sono più moderno. Ormai le banche moderne di oggi si nascondono negli angoli più bui, ti aspettano la notte quando dormi a casa. Niente, sono arrivato là, dice quanto deve versare? Gli ho detto 300 euro. Dice signore mio, non le conviene perché lei paga, versa 300 euro e già dopodomani, con tutte le spese che affronta, è sotto di 547 euro. Ho detto, ma mi scusi, ma questo che è? Curare l'interesse del cliente, questo è? Loro curano il loro, tu ce l'hai scritto pure nel contratto, in braille ma c'è scritto. Lo so, però cambio banca. Cambio... Dimmi una cosa, non per farmi gli affari tuoi, ma tu che conto hai? Conto limone. Qua è l'inghippo, tu devi fare come a me, ti devi fare il conto cetriolo. E qual è la differenza? Ti spiego che me l'hanno spiegata in banca. Col conto limone la banca ti spreme, il succo se lo prendono loro e le bucce le danno a te. Invece col conto cetriolo... E tu da molto tempo ce l'hai. Ormai non lo sento neanche più. Un'altra radio. Roma. London dropped its dignity. Yeah. So has France and Germany. Yeah. All hands are dancing to a raggedy melody full of originality. Sing it, though. The folks who live in sunny space dance to a strain they call the Spanish tango. Dukes and lords and Russian czars, men who own their motor cars, throw up their shoulders to that raggedy melody full of originality. Italian opera singers have learned to snap their fingers. Give it on, baby. The world goes round to the sound of the international. International. International. The international ride. Sophie Thatcher and Hall Jolson. Veramente, veramente spettacolare. Torniamo in Italia, per l'esattezza a Torino. Il gruppo si chiama Boom Boom Beckett e l'album si intitola Velos e lo trovate su Giamento. Il brano che state ascoltando è tratto dall'omonimo titolo dell'album, Velos. We'll be right back. è una canzone popolare di standard jazz, quindi è un'aria composta da George Gershwin. Il testo è di Ira Gershwin e Dubois Hayward. Il brano viene inciso diverse volte da diversi artisti, sia in chiave jazz che in chiave rock, tanto da dover competere in un certo periodo con Yesterday dei Beatles. Noi andiamo ad ascoltare la versione di Tattoo, Summertime. Realmente eccellente. Questo è il mio giudizio su questo brano che abbiamo appena ascoltato. Lei era Tattoo. Ma ora vi invito tutti ad Alessandria da un amico. Lui si chiama Walter Mazzaccaro e farà parte della rassegna Jazz al Teatro. Jazz al Teatro. Sì, avete capito bene. Da Alessandria verrà a suonare a Roma per tutti Jazz quanti voi. Al Teatro. Oggi su questo podcast ci regala Horizon. Jazz al Teatro. Thank you. dal 1983. Sono di Milano e ci presentano un jazz al dir quanto particolare. Lo capirete dal titolo. Sono i The Road Runners, Bruno and Oscar. Ci ascoltiamo Underground Jazz. Jazz. Jazz. Eccoci nuovamente qui, pronti ad andare avanti con questo tipo di musica, e spero che la selezione che state ascoltando sia di vostro gradimento, sia come genere e sia come tipo di artisti che vi ho proposto. Prima di andare avanti però rispondo a Silvia, che ci ha scritto un'altra radio @live.it domandandoci: voi gli artisti che passate, la musica che passate, da dove la prendete? Ogni selezionatore normalmente all'interno del proprio lavoro dice da dove vengono gli artisti. Comunque nella playlist all'interno del blog in fondo c'è scritto il nome dell'artista e direttamente da dove è stato preso. Questo potrebbe essere un'indicazione per chi ascolta i nostri prodotti. Secondo, va detto che non c'è nessuno che spinge questi artisti. Può capitare che qualcuno mandi qualche canzone a farci sentire, noi la valutiamo, se ci piace la introduciamo all'interno dei nostri lavori. Ma ora è giunto il momento di entrare nell'ultimo blocco, nell'ultima parte di questo lavoro, ossia del mondo del jazz. E la formazione che vi sto per presentare è una formazione alquanto particolare. È influenzata dal dark e soprattutto fa del jazz improvvisato la propria chiave di lettura. Il pezzo che ci stiamo per ascoltare è a cappella, lo possiamo introdurre tranquillamente nel cool jazz. A voi auguro buon ascolto. Loro sono i Glows in the Dark e sono composti da Scott Barton, John Willey, Scott Clark, Reginald Pace, Cameron Ralston. Il brano si intitola Forge Glass Darkly. A proposito, hai sentito? Hai sentito che cosa ha detto Berlusconi? No, ha detto che i politici sono tutti ladri. Ah, confessato! Ma perché sei così? Ma che dici? Che dici? Che dici? Quello non è un politico, quello è un imprenditore. Ah, allora no, allora no. Che c'è? E quindi scusami, i politici come si sono difesi? Ognuno ha cercato di difendersi come ha potuto. Ah. Sì. Fini ha detto io sono giornalista. Castelli ha detto io faccio l'ingegnere. De Michelis ha chiesto il patteggiamento. L'unico che ha confessato di essere un politico è stato Buttiglione, ma non ci ha creduto nessuno. Un'altra radio Roma. Ci spostiamo in Russia per una formazione composta da una batteria, un basso, una tastiera ed una voce che risponde al nome di Mystic Morrison Visions. La loro musica è a cavallo di un confine tra improvvisazione d'avanguardia e groove funky jazz. Stiamo per ascoltare Angry as Small. Direttamente nel sito di Dogmatic ho trovato questo artista che con il pianoforte fa delle cose veramente eccellenti. Si chiama Roger e il brano che vi sto per presentare si intitola Boom. Sta trascorrendo molto velocemente e la musica che stiamo ascoltando devo dire che mi ha dato una bella carica positiva, perché nel mondo oggi c'è bisogno di cose positive e vi posso assicurare che Nartra Radio Roma è tutta al positivo. Il brano che ci stiamo per ascoltare l'ho estratto ancora una volta da Dogmatic, che ringrazio pubblicamente insieme a Free Music Archive e a Giamendo. Loro sono francesi e si chiamano International Big Bonobo Congo. Il brano che stiamo per ascoltare è Yuri Gagarine. Тем, что Юрий Гагарин, первый человек в космосе, был русский. Космос. Giunti al termine di questo podcast, è passato poco più di un'ora e il tempo è volato come se fosse iniziato poco fa, almeno per quello che mi riguarda. Quindi di nozioni e di notizie ne abbiamo sparate a bizzeffe, chiacchiere ne sono state fatte anche tante, pure troppe. Pertanto a me non resta che salutarvi, ringraziarvi perché ci seguite sempre più assiduamente, questo non fa altro che caricarci di energie per andare avanti con i nostri progetti, ringraziare tutti gli artisti che donano liberamente la loro musica, e l'ultimo gruppo che vado a presentarvi è un gruppo che suonerà nella rassegna di jazz al teatro. Si chiamano Neko e sono composti da Francesco Diodati alla chitarra, Francesco Bignoni sax tenore, Francesco Ponticelli contrabbasso, Ermanno Baron batteria. Il brano lo trovate all'interno dell'album intitolato Neko, uscito nel 2010 per Awand Records. Per salutarci ci stiamo ascoltando un brano composto da Francesco Diodati, dal titolo Puerple Bra. Thank you.